Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, siamo pronti in regia la parte tecnica Peter Bescapè, in redazione Laura Vanossi, pronti anche i temi del nostro sommario. Ipertensione, un fattore di rischio da non sottovalutare. Occhiaie e borse, consigli per prevenirle, rimedi per attenuarle. Emozioni al cinema. Oggi un tema dai grandi numeri, parliamo di ipertensione, un fattore di rischio che pesa sulla salute di circa 13 milioni di italiani. Bene, questo è il dato che conosciamo, ma è un dato per difetto perché c'è anche chi è iperteso e non lo sa e chi, pur sapendolo e curandosi, non riesce comunque ad avere valori accettabili o forse dovrei dire ottimali. E ciò può capitare per una serie di ragioni che cercheremo di analizzare oggi, ma che potete aiutarci a scoprire anche voi raccontandoci se e come riuscite a controllare la vostra pressione, se la cura che state seguendo vi dà qualche disturbo. Anche ci interesserebbe sapere l'ultima volta che avete misurato la pressione e se avete modificato il vostro stile di vita da quando avete scoperto di essere ipertesi. Il nostro centralino è già a vostra disposizione, il numero verde per intervenire è 800 24 00 24. Se preferite potete come sempre inviarci degli sms al 349 238 6666. In linea con noi il professor Mancia, professore ordinario di medicina presso l'Università di Milano Bicocca. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. E in linea con noi abbiamo anche il professor Roberto Manfredini, direttore dell'unità operativa di medicina interna, ospedale del Delta ASL di Ferrara. Professor Manfredini, bentornato. Buongiorno, bentrovati a lei, a professor Mancia e a tutti gli ascoltatori. Professor Mancia, l'ipertensione è un fattore di rischio, non è una malattia. Io partirei da qui, se lei è d'accordo, perché da un lato c'è chi dell'ipertensione proprio non si cura, pensando che da sola non possa fare danni. Dall'altro invece chi, scoprendo di essere iperteso, si sente malato, finito, condannato. Sì, in effetti lo dice bene lei, non è una malattia. L'iperteso non è sostanzialmente diverso dal normoteso, eccetto che per i valori di pressione arteriosa e alcune volte purtroppo anche per la più frequente concomitanza di altri fattori di rischio che lo rendono più propenso a sviluppare nel corso della sua vita delle malattie cardiovascolari o renali. Professor Manfredini, ma è anche vero che ci sentiamo un po' tutti con il destino segnato, insomma come se avessimo questa spada di Damocle che ci pende sulla testa, perché bene o male tutti mettiamo in conto che con l'età i valori della pressione si alzino, si alzeranno, e quindi che fare? Che con l'età i valori della pressione si alzino, questo è fuori di dubbio, però non è detto che lo dobbiamo prendere quindi come un dato fisiologico, come il fatto che invecchiamo. Vanno assolutamente controllati, come diceva il professore prima, le cause possono essere tante, perché tanti fattori di rischio giocano insieme alla pressione, ma il sovrappeso, la glicemia, il colesterolo, le malattie dei reni. Direi invece di non dare la scusa agli ormoni, come tante persone cercano di fare: avrò una disfunzione ormonale, perché non è vero, le malattie di tipo ormonale interessano più i giovani, non gli anziani. Professor Mancia, ma c'è anche un aspetto importante da sottolineare: i figli di persone ipertese, anche in assenza di valori alterati, quindi come dite voi normotesi, rischiano, perché andando a studiare questi soggetti i medici si accorgono che sono già in atto dei danni. Ci spiega bene, professore? Sì, il problema è che l'ipertensione danneggia alcuni organi vitali, cuore, rene, cervello, e questi danni diventano manifesti clinicamente nel corso degli anni, ma è quello che abbiamo scoperto negli ultimi decenni, è che questi danni avvengono abbastanza precocemente. Come diceva lei, addirittura nei figli ancora normotesi di due genitori ipertesi è già percepibile qualche piccola anomalia di questi organi bersaglio dell'ipertensione. E il messaggio di tipo pratico è che naturalmente bisogna cercare di scoprire l'ipertensione tempestivamente e trattarla tempestivamente. Quindi, professore, oggi non vogliamo solo rivolgerci a chi la pressione non riesce a tenerla sotto controllo, ma anche a chi, come dire, un altro fattore di rischio, i genitori ipertesi, professor Mancia. Beh sì, noi sappiamo già da tanto tempo che l'ipertensione ha una componente ereditaria, una componente, non è ineluttabile che avere genitori ipertesi vuol dire sviluppare un'ipertensione, ma il rischio di svilupparla è più alto, e quindi chi ha questo fattore di rischio, cioè la familiarità per ipertensione, deve ovviamente controllare la propria pressione più frequentemente che non persone con componente genetica negativa ed evitare alcuni fattori che possono favorire lo sviluppo di ipertensione. Professor Manfredini, se sembra strano, ma per mettere tutti i medici d'accordo sui valori normali di pressione arteriosa ci sono voluti degli anni, studi, e ancora adesso non c'è proprio pieno accordo. Ci aiuta a capire come stanno le cose, quali sono i valori ottimali? Beh, intanto diciamo che mettere d'accordo i colleghi, cioè gli studiosi sono d'accordo, sono un po' cambiati negli anni perché tutto sommato si è visto, come diceva lei, con gli studi che alcuni valori che alcuni anni fa davamo per ottimali adesso sono solo normali, oppure bisogna cercare sempre di tendere al minimo. Però il problema è che forse fra noi stessi, fra i colleghi, non tutti prendono assolutamente da seguire dei valori che esistono. Per esempio, lei prima ha parlato di valori normali e di valori ottimali. Sì. Ecco, diciamo che avere sotto 120-80 è considerato un valore ottimale. Possiamo dire che avere sopra 140-90 è ipertensione, sì, naturalmente con tutti i limiti delle misurazioni, eccetera. E questa fascia intermedia che va dai 120 ai 140, abbiamo qualche piccola differenza. I 130 noi europei la chiamiamo normale, o gli americani la chiamano preipertensione o normale alta. Comunque diciamo che 140-90 è ipertensione, sotto 120-80 è perfetta, è ottimale, sotto i 130-80-85 possiamo ancora considerarla una pressione buona. Ci scrive un ascoltatore che ho 40 anni, ho la pressione circa 90 massima, 60 minima, ma è troppo bassa, è normale. Professor Mancia, si rischia di avere la pressione troppo bassa? Ah, noi beh, oggi certo, parliamo esattamente del contrario, cioè quando i valori della pressione sono troppo alti, e parleremo dei rischi, danni d'organo e quant'altro. Ma chi ha una condizione come quella che ci descrive Dani di Alessandria, 90 di massima e 60 di minima, è troppo bassa? Potrebbero esserci dei rischi? Sicuramente 90 su 60 è troppo bassa. Va detto che se madre natura ci ha dato dei valori di pressione bassi, questo ovviamente comporta un rischio inferiore, quindi in un certo senso è una situazione fortunata. Dove c'è il limite? Il limite esiste quando questi valori creano dei sintomi, che possono essere stanchezza oppure vertigini quando il paziente assume la posizione eretta, proprio perché la pressione troppo bassa può ridurre la perfusione di sangue agli organi vitali, e in questo caso naturalmente bisogna cercare di intervenire, anche se le terapie che nei pazienti nei quali l'ipotensione assume caratteristiche patologiche, intervenire terapeuticamente non è sempre facile. Professor Mancia, lei ha parlato di sintomi che può dare una pressione troppo bassa, quali sono invece i sintomi che può dare una pressione alta, magari nella persona che non sa di avere valori alti di pressione? Ma l'ipertensione non è associata a sintomi in generale. Sì, infatti l'ha chiamata killer silenzioso. Mal di testa, vertigini, senso di stanchezza, però sono sintomi difficilmente associabili in maniera molto precisa all'ipertensione. La pressione in sé comincia a dare sintomi a valori estremamente alti. I sintomi in genere si verificano purtroppo quando vi sono già dei danni d'organo chiari agli organi bersaglio e quindi quando già l'ipertensione ha creato dei problemi. Questo è uno dei problemi in fondo dell'ipertensione, il fatto che il paziente non se ne accorge, il fatto che anche non vede un beneficio immediato della terapia e quindi magari è portato a sospenderla perché non riesce a rendersi conto che la terapia non viene fatta per un beneficio del presente ma per un potenziale beneficio del futuro. Ci scrive Alessio da Milano, quali sono i sintomi dell'ipertensione? Lei l'ha detto, ma lui specifica, il formicolio alle dita delle mani o dei piedi potrebbe essere un campanello d'allarme? No, assolutamente no, direi. Allora, adesso pensate ai vostri valori pressori, ai farmaci che state prendendo, ripensate alla vostra dieta, a quanto sale assumete, perché anche questo è importante, al vostro giro vita e ai valori pressori dei vostri genitori. Chiamateci 824 0024, a disposizione due esperti, il professor Mancia e il professor Manfredini, che ci accompagneranno sino alle 12, messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Occhi stanchi, segnati dagli anni, dalla fatica e forse anche da uno stile di vita poco in sintonia con il nostro benessere. Parliamo di occhiaie e di borse, ne faremo volentieri tutti a meno, ma vediamo se questo è possibile, se si possono prevenire, soprattutto se si possono attenuare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, presidente dell'ISPLAD. Professore, buongiorno. Buongiorno. Oggi un compito difficile. Sì, perché è un qualche cosa che abbiamo tutti davanti agli

Quando la pressione sale e quando, nonostante tutto, nonostante la terapia non scende, che cosa si rischia e chi rischia di più? Oggi in linea con noi il professor Mancia e il professor Manfredini. Professor Mancia, ci sono tante persone che pur seguendo una terapia non riescono a arrivare a dei livelli normali della pressione e corrono dei rischi alti. Voi medici dite che i pazienti non sono ligi nel seguire le vostre indicazioni, i pazienti dal canto loro hanno diverse giustificazioni o tali pensano di avere. Ma il quadro non è rassicurante e alla fine si rischia grosso. Voi avete svolto una ricerca che fotografa chiaramente la situazione, professor Mancia. Sì, in effetti la gran parte dei pazienti purtroppo non riesce a raggiungere quelli che sono considerati gli obiettivi terapeutici. Sì. Perché in aggiunta a quanto diceva il professor Manfredini prima, va detto che non è proprio vero che ci sono incomprensioni tra gli esperti, perché i dati che si riferiscono alla pressione ottimale sono quelli della popolazione generale. Se madre natura mi ha dato meno di 120 ho meno rischio. I dati che si riferiscono all'intervento terapeutico sono basati evidentemente sulla dimostrazione che questo intervento è benefico. Oggi noi sappiamo che nei pazienti ipertesi è sicuramente protettivo scendere sotto i 140 90 mm di mercurio e in quelli ad alto rischio sotto i 130. Quindi questi sono gli obiettivi terapeutici attuali. E purtroppo sì, vengono raggiunti soltanto in una minoranza di pazienti. Non c'è anche da parte dei medici una sorta di rassegnazione quando non si riesce a far arrivare i valori della pressione nella fascia corretta? Sicuramente, i fattori sono molto importanti ed è un fenomeno generalizzato a tutto il mondo. In Italia parliamo di cifre tra il 15 e il 20% di pazienti controllati e c'è sicuramente la frustrazione del paziente nel vedere la sua pressione non controllata, c'è la comparsa a volte di effetti collaterali che disamora il paziente alla terapia e c'è anche da parte del medico quella che oggi viene chiamata l'inerzia clinica, cioè il medico tende a posticipare la decisione di cambiare o incrementare la terapia e accanto a questo vi sono dei fattori di carattere anche socio-economico, il costo della terapia, la difficoltà della visita medica. Tutte cose sulle quali bisognerà intervenire nel futuro per evitare che l'ipertensione continui a mantenere questo poco ambicuo primo posto come causa di morte al mondo. 824 0024, se volete intervenire, intanto andiamo a Biella, ci chiama Alessandra. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, intanto ringrazio di avermi chiamato. Volevo parlare appunto col professore e sentire. Io ho avuto problemi di ischemia in un occhio, che non so se è stato dovuto a pressione perché non ero controllata. Sì. Da allora sono sempre stata controllata di pressione, mi controllo e prendo, posso dire il nome delle medicine? Sì, penso di sì, tanto. Sì, allora prendo l'Obivon e Norvasch. Sì. D'estate prendo mezzo Norvasch e un Obivon e nella stagione invernale 1 e 1. Sì. Però non riesco a tenere la pressione di notte. Io al mattino mi alzo con pressione alta, mi sveglio con pressione alta, 2-3 ore dopo, senza prendere niente, io la pressione mi si abbassa di magari 140 faccio adesso o 150, mi si abbassa a 115-120 senza prendere niente. Io faccio la mia terapia ugualmente, la prendo al mattino, dopo che la pressione mi era già scesa, la prendo ugualmente e poi la prendo la sera prima di coricarmi. Allora, sentiamo il mio dottore mi dà l'idea che sia un po' come dice il professore, che sia rassegnato. Sia rassegnato, professore. No, no. Lei no, professor Manfredini, lei si rassegnerebbe? Che cosa potrebbe suggerire alla nostra amica Alessandra? No, rassegnarsi sicuramente mai. No. Mai. Bisogna tenere presente che abbiamo dei momenti nella giornata in cui ci aspettiamo di avere dei valori di pressione più alto. Per esempio, come diceva giustamente la signora, al mattino, dopo che ci siamo svegliati e addirittura ancora prima di svegliarci mentre stiamo sognando, raggiungiamo un picco abbastanza importante, che effettivamente è un picco che può avere anche dei risvolti di tipo fattore di rischio. Poi durante il pomeriggio si potrebbe verificare un secondo picco, tutto in linea con i movimenti delle catecolamine, dell'adrenalina, eccetera. Per cui l'aggiustamento, la terapia non è mai uguale per tutti i pazienti. Questo proprio è un consiglio che si può dare a tutti i colleghi. Forse è un po' più faticoso fare delle prove, Però la terapia non è uguale per tutti, anche l'orario delle somministrazioni, il tipo di farmaco, se copre o no con efficacia le 24 ore. Noi dobbiamo essere certi che se una persona prende una pastiglia al mattino, la mattina dopo, come dice la signora, quando la va a prendere, sia ancora potente, no? E non avere avuto invece un paio d'ore in cui questa era scappata un pochino via. Quindi le molecole hanno un po' tutte le loro caratteristiche, le conosciamo molto bene, farmaci ce ne sono tanti, si può anche fare qualche aggiustamento in qualche orario della giornata per vedere di essere più efficaci. Ma scusi, professor Manfredini, prima di andare ai mercati, quindi rapidamente, come faccio a capire se la mia terapia mi copre per le 24 ore? Devo misurare la pressione in un momento particolare, ad esempio in questo caso al mattino, prima di misurare la pressione? Per esempio, ecco, misurare la pressione al mattino, magari prima di avere preso la propria terapia, può essere un indicatore molto semplice e molto efficace della risposta alla terapia stessa. Poco costoso, molto semplice, direi che è un consiglio che possiamo senz'altro dare. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di ipertensione, un fattore di rischio importante che spesso viene trascurato. Parliamone insieme, 800 24 00 24 e nell'attesa delle vostre chiamate saluto il dottor Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Trapianti. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dottore, una notizia di oggi ci apre una serie di interrogativi. Muore dopo il trapianto. Allora, dottore, è possibile che il fallimento di un trapianto dipenda dalla qualità dell'organo impiantato? Allora, il fallimento di un trapianto può dipendere da varie cose. Noi diciamo sempre che il trapianto non è mai a rischio zero. La maggior parte dei trapianti va benissimo. In alcuni casi ci possono essere dei problemi. Nel caso di cui stiamo parlando, il fallimento del trapianto non è determinato dalla qualità dell'organo, su cui dopo dirò alcune cose, sì, ma è determinato dal fatto che, a insaputa dei medici che hanno fatto il trapianto, il paziente aveva fatto una terapia radiante perché era portatore di un tumore del fegato. E questa terapia è stata fatta pochi giorni prima del trapianto e non è stata detta. Era una controindicazione al trapianto. Perché? Perché una terapia radiante determina un abbassamento del numero dei globuli bianchi, perché il midollo non produce più globuli bianchi. Quindi c'è un ulteriore abbassamento delle difese immunitarie che si assomma a quello della terapia antirigetto. Il risultato finale è che siamo a fortissimi rischi di contrarre delle infezioni che non si controllano. Infezioni che noi definiamo come stato settico, sono infezioni tipo batterico. E purtroppo è successo in questo caso che questo stato settico ha prodotto la morte del paziente. Dottore, torniamo ai trapianti, alla qualità dell'organo. È vero che per la scarsità di donazioni dovete utilizzare anche organi non perfettamente sani? Non, il termine non perfettamente sani non le giusto. Piace. No, non è giusto. Non è giusto. Perché non è possibile definire se un organo a 70 anni è sano e un organo a 30 no. Se noi dovessimo trapiantare solo organi prelevati da persone che hanno 30 anni, molte persone per ricevere un organo perfetto morirebbero prima di ricevere l'organo perfetto e non potremmo fare trapianti. Quindi è necessario utilizzare gli organi che sono disponibili dai donatori. Perché? Perché questi organi possono benissimo curare e salvare la vita delle persone. Che cosa succede in alcuni casi? Prendiamo questo caso. Questo signore aveva delle gravi malattie. Aveva una cirrosi, cioè una insufficienza epatica terminale causata da un'infezione col virus dell'epatite C, sì, ed era portatore di un tumore del fegato. Se questo signore non fosse stato rapidamente trapiantato, sarebbe morto. Ora, l'organo che ci è stato disponibile era un organo che veniva da una persona che a propria volta aveva avuto contatto con un virus dell'epatite, in questo caso il virus dell'epatite B. Aveva avuto un contatto, questo ci hanno detto gli esami. E quindi era possibile che questo fegato fosse portatore di questa infezione. Che però voi siete in grado di controllare con questa adeguate terapie. Questa è un'infezione terapie. Che noi siamo perfettamente in grado di controllare con un'adeguata terapia, tecnicamente si chiama profilassi. Sì. E questi fegati che hanno una quota di rischio, che noi definiamo rischio calcolato, proprio perché sappiamo qual è, sappiamo come si controlla, vengono sistematicamente utilizzati e funzionano benissimo. E il paziente viene informato, dottor Nanni Costa? Il paziente viene informato perché il medico fa due cose. Primo, valuta che c'è un beneficio, la possibilità di essere curato e di guarire, che è molto superiore al rischio, che è quello di una morte certa entro brevi tempi. Secondo, il paziente viene informato del fatto che quell'organo è comunque, per lui è adatto, per lui è idoneo, perché altrimenti i medici non glielo proporrebbero, però è comunque portatore di un fattore di rischio che è controllabile. Allora, queste strategie sono strategie, come dire, abituali. Perché? Perché sicuramente è molto peggiore morire per la malattia epatica, innanzitutto. Questo è il nostro scopo. Poi, in questo caso, e comunque che è un caso semplificativo, questo fegato ha funzionato benissimo. Il problema è che questo paziente è andato a casa dopo pochi giorni dall'intervento. Il problema che c'è stato è che purtroppo questo paziente ha avuto delle infezioni che non sono dipese dal fegato, ma sono infezioni che sono dipese dal fatto che non ha avuto una sufficiente difesa immunitaria, perché questo tumore di cui era portatore era stato trattato con una terapia radiante, con dei raggi, che questa operazione non era stata detta. Quindi quello che noi definiamo l'uso di organi, che lei ha detto non perfetti, ma non esistono organi perfetti, sono organi che per quel tipo di paziente in quel momento sono disponibili per salvargli la vita e per curare, per dargli una vita migliore. Dottor Nanni Costa, è la scelta che i medici fanno. Dottor Nanni Costa, io la ringrazio per queste precisazioni che sicuramente ci aiutano a leggere meglio le informazioni che leggiamo sul giornale. Dottore, ci sentiamo, grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. E noi torniamo ad occuparci di ipertensione, abbiamo in linea con noi Antonietta da Firenze, poi leggerò una serie di sms che chiedono proprio informazioni sul modo di misurare la pressione, su eventuali momenti in cui la pressione balza in alto e poi torna normale, se è da considerare ipertensione, ma andiamo ad Antonietta, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Antonietta? Volevo fare questa domanda. Sì. Avere le pulsazioni alte potrebbe, e pur avendo a minima e massima nei valori normali, potrebbe essere sintomo di ipertensione? Grazie Antonietta. Professor Mancia, c'è una relazione? Ma una certa relazione c'è, ma è lassa in un certo senso, cioè non può essere presa come regola generale. Ci sono ipertesi che hanno frequenze ai limiti bassi della norma e ci sono ipertesi che hanno frequenze alte, quindi non può in maniera sufficientemente precisa essere considerata un'indicazione che l'individuo è iperteso. Basta misurare la pressione. Bisogna misurare la pressione. È chiaro che la frequenza cardiaca entra nel giudizio clinico, perché sappiamo che pazienti con frequenza cardiaca molto alta possono avere in maniera subclinica dei problemi, tipo per esempio lo scompenso cardiaco. E poi la frequenza troppo alta è anche di per sé un fattore di rischio cardiovascolare, ma non è però un sintomo che possiamo con una certa sicurezza attribuire all'ipertensione arteriosa. Vi leggo un messaggio di Raffaella che ci scrive da Vicenza. Sono alla seconda gravidanza, la prima con problemi digestosi. I valori ottimali in gravidanza sono uguali alle persone, tra virgolette, ci scrive, normali. È più importante la minima o la massima? Professor Manfredini, faccio lavorare lei adesso. Beh, intanto diciamo che in assoluto non bisogna dare un'importanza particolare solo all'una o all'altra. Sì. Questi erano concetti del passato in cui magari si dava una grossa responsabilità alla cosiddetta pressione minima, mentre invece la pressione massima tutto sommato si poteva un po' perdonare, perché magari era colpa dell'emotività o di quant'altro. Diciamo che quando noi diamo dei valori che ha enunciato prima il professore, che abbiamo detto, diciamo quindi anche solo una dei valori di pressione massima o anche solo di valore minima superiore alla norma, sono già da considerare non normali e quindi iperteso. Certo. Nella persona cade a 180 non si può dire che perché a 70 di minima le cose vadano bene. Certo. Assolutamente no. Questo tanto meno anche per un altro concetto così un pochino in voga tra le persone e anche ahimè tra alcuni medici, che le persone anziane possono tranquillamente tenersi la pressione alta. Invece perché in questo... fondo se hanno 70-80 anni la pressione di 170-180 può ancora andare bene. Non è assolutamente vero. Ritornando alla gravidanza? La seconda parte della domanda era, scusi, il fatto che... Lei è in gravidanza e si chiedeva, ha avuto anche un problema di gestosi nella prima e alla seconda, e allora praticamente ci chiede quali sono i valori che, della pressione in gravidanza, se cambiano da quelli della, di quando uno in gravidanza non è. No, diciamo che... ci deve essere leggermente più bassa, se ci no, sono... No. Diciamo che nel secondo trimestre di gravidanza di solito si hanno dei valori che sono un pochino più bassi di quelli pre-gravidanza. Mm. Questo come regola generale. Però in assoluto non è che ci sia una grande differenza dei valori, assolutamente. Ipertensione, il tema del giorno. Andiamo al nostro consiglio di lettura. Cento risposte sulla pressione, questo è il titolo del libro che grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa. Per avere il libro a casa dovete mandare un'email a esserebenessere@radio24.it, titolo del libro, recapiti e numero di telefono. Naturalmente dovete essere il primo ascoltatore a raggiungere il nostro indirizzo di posta elettronica. In collaborazione con IBS.it. Gilberto ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo fare una domanda, anzi sono due le domande al professore. Sì. Volevo chiedere se l'ipertensione si può curare, cioè c'ha un termine, una terapia che finisce, perché io sono 3 mesi che sto in balia dell'ipertensione. Sì. E mi hanno detto qualche collega che potrebbe avere degli effetti a livello appunto con i rapporti sessuali, che influisce... Allora, chiediamo aiuto al professor Mancia. Professor Mancia, la prima domanda, in modo che chiariamo anche, rispondiamo a tanti sms di ascoltatori che ci chiedono se i valori della pressione rientrano dopo la terapia si può interrompere oppure una terapia a vita. L'abbiamo detto diverse volte, ma insomma l'idea di prendere una pastiglietta o più pastigliette per tutta la vita non ci piace molto. Purtroppo, vorremmo che lei ci rispondesse di sì. Purtroppo la risposta è sempre quella: non si cura la causa o le cause dell'ipertensione, ma si abbassa la pressione giorno dopo giorno, per cui se la terapia è efficace va continuata in maniera indefinita. Che ci piaccia o meno, questa è la situazione. Magari potessimo rimuovere le cause. Se la terapia viene interrotta a distanze maggiori o minori, la pressione tende a ritornare ai livelli elevati di partenza. Questa incidentalmente è una delle cause di cattivo controllo della pressione. Il paziente vede la pressione ridotta e interrompe la terapia. E questo è un errore, si deve prendere a vita. Mentre il nostro ascoltatore chiedeva se c'è una relazione tra la terapia antipertensiva ed eventualmente dei problemi nella sfera sessuale. Sì, ci può essere. Ci può essere in termini di natura generale. È stato visto, per esempio, che la stessa diagnosi di ipertensione comporta in alcuni pazienti una riduzione delle prestazioni sessuali, perché evidentemente c'è una sfera psicologica in questo fattore. Poi anche la terapia, lo stesso concetto di terapia, anche quando viene data una finta terapia, si associa ad una maggiore incidenza di problemi sessuali. E poi vi sono dei farmaci che purtroppo possono dare questo tipo di problemi, non nella grande maggioranza dei pazienti, ma in un certo numero di pazienti. Alcuni dei farmaci più implicati in questo tipo di problemi, che è ovviamente un problema serio, soprattutto nelle persone di giovani o di mezza età, sono i diuretici e i beta bloccanti, che hanno questo tipo di effetti collaterali con una frequenza superiore a quella di altri farmaci. Andiamo a Massimo, ci chiama da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno, senta, volevo fare una domanda, io ho sentito che il padre ha già detto qualcosa adesso. Sì. Praticamente mia moglie prende un sacco di medicine avendo anche dei problemi alle coronarie. Sì. io ho notato che la mattina, se mi misuro la pressione quando è ancora fuori casa, ha valori più alti. Sì. Dopo 10 minuti a sedere in piedi, la misuro al tavolo, sì, e già si abbassa. Sì. Allora, è corretto misurarlo da distesi o è corretto misurarlo in piedi? In piedi. Grazie Massimo. Professor Manfredini, andiamo a misurarci la pressione. Coricati in piedi, seduti, quando? Dunque, intanto ci terrei a dire che non darei delle regole fisse, perché più regole si danno, più queste vengono disattese. Quindi, esatto, quindi, questa è la prima regola. Per cui bravo Gilberto che alla mattina misura la pressione a sua moglie, quindi intanto un encomio. Poi il fatto che ci siano dei valori diversi da coricato a in piedi è normale, assolutamente normale, perché la posizione clinostatica o ortostatica, a seconda della legge di gravità, modifica i valori di pressione. Se, diciamo, come regola lo misura sempre allo stesso modo, questo per dare un criterio di uniformità, e poi giustamente si deve aspettare che al mattino appena alzata sia un pochino più alta. Allora, io ringrazio il professor Mancia, ringrazio il professor Manfredini di essere stati con noi. Abbiamo cercato di rispondere ai dubbi più comuni su questo fattore di rischio. Professore, io la ringrazio. Professor Mancia, grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo presto, anche al professor Manfredini. Grazie ancora, buongiorno a tutti. Abbiamo visto che le emozioni possono influenzare anche la nostra pressione facendole fare un balzo in avanti, ma di pressione abbiamo già avuto modo di parlare diffusamente oggi, invece mi soffermerei sulle emozioni. Da anni i ricercatori cercano di misurarne l'intensità. Bene, ce l'hanno fatta. In linea con noi Thomas Pololi, ricercatore all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Termografia, è questo il termometro delle nostre emozioni, e non uso questo termine a caso perché voi misurate proprio la temperatura corporea per capire qualcosa di più delle emozioni. Sì, esatto, esiste un legame diretto tra la temperatura corporea e l'emozione che una persona sta provando, e questo è dovuto semplicemente a dei principi medici di vasodilatazione o vasocostrizione. Vasodilatazione fa aumentare la temperatura, una vasocostrizione fa diminuire la temperatura. Ma d'altronde, non per dire, ma già si sapeva, febbre, sì, d'amore, sì, paura da brivido. Non è una novità. Non è una novità, ma quello che è interessante è che voi applicherete la termografia al cinema agli spettatori di una rassegna che voglio segnalarvi, che apre proprio oggi a Milano allo Spazio Oberdan e si intitola Cinema Senza Barriere. È una programmazione cinematografica pensata in modo particolare, ma ci tengo a sottolineare, non solo, per i non vedenti e le persone con deficit uditivi. Infatti i film sono audio commentati e sottotitolati. In pratica cosa farete? Noi abbiamo avuto l'occasione di collaborare con questa associazione che, oltre a permetterci, diciamo, di misurare l'emozione degli spettatori, ci permetterà anche, cosa interessante, di misurare l'emozione di diverse tipologie di spettatori che usufruiranno del film in modo diverso, e quindi di capire anche come migliorare, per esempio, i dispositivi messi a disposizione di un non vedente o di un non udente per fruire del film, della pellicola. Se volete saperne di più, la programmazione la trovate sul sito mostrainvideo.com oppure provincia.milano.it. Allora, grazie, buona termografia al cinema. Grazie mille. Buona giornata. Allora, voi che avete ascoltato Essere Benessere, appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.